Perciò, fratelli santi, partecipi di una vocazione celeste. Fissate lo sguardo su Gesù, l'apostolo e pontefice della nostra confessione di fede, il quale fu fedele a colui che lo fece, come anche Mosè lo fu in tutta la casa di lui. Infatti, Gesù è stato fatto degno di una gloria tanto maggiore di quella di Mosè, quanto l'onore di chi fabbrica la casa è maggiore di quello della casa. Ogni casa, infatti, è costruita da qualcuno. Ora, chi ha fabbricato tutte le cose è Dio. Mosè, sì, fu fedele in tutta la casa di lui, come ministro, a testimonianza delle cose che dovevano essere dette. Cristo, invece, come figlio nella casa di lui, la cui casa siamo noi, se però conserviamo la sicurezza e il vanto della speranza. Perciò, come dice lo Spirito Santo, oggi, se udirete la sua voce, non indurite i vostri cuori, come nell'esasperazione, nel giorno della tentazione nel deserto, dove i vostri padri mi tentarono mettendomi alla prova, benché avessero visto le mie opere per 40 anni. Perciò mi irritai contro questa generazione e dissi: sempre si sviano nel cuore, essi non hanno conosciuto le mie vie, cosicché ho giurato nella mia collera, non entreranno nel mio riposo. Badate, fratelli, che in nessuno di voi vi sia un cuore cattivo di incredulità nell'allontanarvi dal Dio vivente. Ma esortatevi l'un l'altro ogni giorno, finché si può dire oggi, affinché nessuno di voi sia indurito dalla seduzione del peccato. Siamo infatti divenuti partecipi di Cristo, purché conserviamo solida, sino alla fine, la sicurezza iniziale. Quando si dice, oggi, se udirete la sua voce, non indurite i vostri cuori, come nell'esasperazione. Chi furono infatti quelli che, avendo udito, esasperarono? Non furono proprio tutti quelli che uscirono dall'Egitto sotto la guida di Mosè? E contro chi Dio fu irritato per 40 anni? Non forse contro quelli che avevano peccato, i cui cadaveri caddero nel deserto? E a chi giurò che non sarebbero entrati nel suo riposo se non a quelli che si erano ribellati? Or noi vediamo che essi non poterono entrare a causa dell'incredulità.